sempre vicino a te. Ora no, non posso stare bene, ma è bello se stai con me. Col cuore che piange amaro, capisco è giusto così. Ma no, difficile accettarlo, il sentimento